L'Italia è stata l'unica nazionale a prepararsi in altura, nessun'altra squadra lo ha fatto. Poi ci sono quelli, alcune nazioni che usano le tende ipossiche, che sono quelle che favoriscono il recupero attraverso il sonno. In Italia la tenda ipossica non è legale, perché da questo punto di vista in Italia abbiamo una legislazione antidoping molto severa, è considerata doping questa pratica, e si è preferito invece fare alla maniera antica, cioè andare a Sestriere e allenarsi in quota. Rispetto alle prime esperienze di queste prime ore che tu hai trascorso in Sudafrica, come valuti tutto ciò? Io ho letto che Lippi è molto, molto fiducioso per questo. Io trovo veramente che l'idea di andarsi ad allenare in quota possa essere giusta, perché la sera veramente ti assicuro che fa molto freddo, e quindi credo che siano condizioni simili a quelle che la squadra italiana ha trovato a Sestriere. Poi l'Italia giocherà, se non ricordo male, due partite alle 16, e alle 16 ci può essere ancora un pochino di caldo. Poi dipende molto da dove giochi. Ripeto, io sono a Johannesburg, quindi alle 16 qui a Johannesburg si sta bene, però io in questo momento vi sto parlando all'aperto, c'è un bellissimo sole, però sopra la polo d'ordinanza ho un leggero maglioncino. Ti assicuro che si sta bene, non sia né freddo né caldo. Quindi da questo punto di vista io veramente credo che possa fare davvero la differenza questo, perché se il caldo può segnare e magari livellare le partite, nel senso che magari nessuno riesce a esprimere corsa perché fa troppo caldo, con il fresco o addirittura il freddo credo che certi valori poi dovranno venire fuori. Questo magari può preoccuparti, perché magari non abbiamo in quanto nazionale italiana un valore complessivo altissimo, però io parlo complessivamente, secondo me può essere un mondiale veramente bello.